il, appunto, l'incontro con la facoltà di lettere, insomma, in particolare col Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche dell'Università di Trento, che è rappresentato evidentemente in primo luogo dalla Silvana Sai del Menchi, e quindi da questo punto di vista direi che questa è un'iniziativa che in qualche modo, mi pare che è la prima che facciamo insieme formalmente, eccetera, corona un lavoro che la professoressa Sai del Menchi fa da ormai anni a Trento con, mi pare, straordinario successo, da come si risulta anche dal pubblico che c'è, che è venuto qui certamente più per merito suo che non per la capacità di attrazione in sede locale che ha l'Istituto Storico Italo-Germanico, e quindi questo è il primo motivo. Ma il secondo motivo, che forse è ancora più importante, è che abbiamo la fortuna di poter contare su relatori che sono di grande importanza per anche il tipo di studi che in questo istituto da tanti anni si fanno, insomma. Allora, in modo particolare, devo salutare per primo il professor e carissimo amico Anthony Molo della Brown University, che però è un italiano, insomma, acquisitissimo, ed è uno dei più importanti studiosi di cose italiane della prima età moderna, in modo particolare stanziato a Firenze sotto questo profilo, Molo, con il quale da poco abbiamo fatto un grosso volume, insomma, insieme, curato da lui stesso, dal professor Fitolini e da me, che contiene gli atti di un convegno tenuto a Chicago, mi pare nel 93, se ricordo bene, nell'aprile, maggio dell'83, un convegno che appunto era dedicato alle origini dello Stato moderno e che secondo me ha portato, insomma, dei risultati che sono degni di essere approfonditi e di essere portati avanti con ulteriori progetti, no? Quindi Anthony Molo qui di nuovo a Trento per lavorare con noi, secondo me è una promessa in qualche modo che questa collaborazione possa continuare ancora in futuro e che quindi si possa andare avanti su questa strada, che è una strada molto importante. Trento è una piccola città, la città di Trento è una piccola università, l'Istituto Storico Italo-Germanico è un piccolo istituto, però i temi che vengono trattati qui sono grossi e sono temi che hanno una portata anche storiografica, voglio dire, internazionale, cioè che entrano nel gioco internazionale. Ora, adesso noi abbiamo intenzione anche di fare una serie di presentazioni di questo volume in giro per la Germania, per esempio, e quindi speriamo che la cosa continui. L'altro ospite molto importante che c'è qui è la professoressa Fasano Guarini, che è preside della Facoltà di Lettere di Pisa in questo momento, ma che, a parte quello, è ormai, insomma, in Italia la capofila, insomma, no? Di una ricerca moderna sui problemi dello Stato, con una capacità di seminazione, insomma, che lei ha portato avanti in questi anni, soprattutto anche nei confronti dei più giovani, delle giovani leve, insomma, che è straordinaria. Anche lei ha partecipato al nostro convegno di Chicago di 2 anni fa, e anche, mi pare che anche per lei questa non è certo la prima collaborazione con l'Istituto, però è una delle prime volte che, insomma, è qui con noi. Quindi, insomma, tutta una serie di motivi per cui io così, mi sono sentito anche un po' lusingato di poter interrompere una mia vacanza di lavoro che sto facendo a Berlino per tornare a Trento, anche per vedere tanti amici oltre che la mia famiglia, ma anche perché questa occasione mi sembrava un'occasione degna di essere sottolineata nel modo migliore. Purtroppo il professor Prodi, che è il direttore dell'istituto e che è l'ispiratore, insomma, tutto quel che volete voi, di tutto quel che si fa qui dentro, non c'è, e allora a maggior ragione parlo io, che un po' sono il suo, come posso dire, sostenitore, insomma, bastone, non so, insomma, quello a cui si appoggia, insomma. Inoltre oggi parlerà anche il professor Maria Varannini dell'Università di Trento, che anche lui è un carissimo amico, a chi un suo posto stabile di ricerca, e quindi è uno di noi. E allora, insomma, io credo che la collaborazione tra università e istituto è una cosa troppo importante. Insisto su questo punto anche nei confronti dei giovani trentini, studenti dell'Università di Trento che sono qui, anche loro devono capire che devono impegnarsi con la loro anima, anche con la loro azione, perché questa collaborazione non vada a ramengo, insomma, non si dissolva, non si capiscano anche loro che insomma devono vedere le cose un po' in grande, non occuparsi solo dei piccoli problemi che riguardano, magari, che sono importanti, che riguardano il funzionamento della loro università, della loro facoltà, con tutte le polemiche che ci sono, che anch'io seguo un po' da lontano, ma devono anche capire che ci sono altre cose, ci sono queste possibilità di incontro, no, di approfondimento scientifico di carattere internazionale o comunque insomma al di là del locale, che sono molto importanti. Quindi insomma grazie perché sono venuti, ma però che vengano anche le altre volte in futuro, insomma che ci stiano dietro, che frequentino la nostra biblioteca, che insomma siano per noi una forza, perché tante volte lavorare in questi campi qui sembra di lavorare nel deserto, perché naturalmente i politici quando leggono un titolo come questo, Alleanze matrimoniali nella Firenze d'alto medievale, pensano che siano magari cose assurde, che non hanno nessun collegamento con quello che loro miracolosamente invece fanno, no? In politica invece è l'opposto vero, è vero l'opposto, insomma, sono proprio robe di questo genere che riescono ad affrontare temi larghi, grandi, in prospettiva molto profonda, che possono contribuire a creare in tutti, soprattutto nei giovani, una mentalità di tipo cultura politica moderna, che è quella di cui l'Italia manca di più. In occasione di questo seminario c'è anche, cioè, o per meglio dire, come è scritto nel avviso, insomma, che è stato distribuito, il seminario è collegato anche, appunto, soprattutto alla pubblicazione recente del volume di Anthony Mollo, Marriage Alliance in Late Medieval Florence, che è uscito nel 1994 presso l'Harvard University Press, e quindi anche questo bisogna dirlo, perché non credo che Mollo si aspetti che qui ci siano molti acquirenti del suo libro, ma insomma, però rimane vero che il libro è uscito, è un libro importante, senz'altro sarà tradotto in italiano quanto prima, e quindi è sempre una cosa bella di poter festeggiare una nascita anche quando si tratta di un libro, perché fare un libro di solito costa più fatica che fare un figlio, insomma, ecco, per quelli che fanno i libri lo sanno, che è una roba dura, insomma. Scusate questa roba un po' estemporanea che ho fatto, ma volevo esprimere la mia gioia, la mia soddisfazione per questo tipo di iniziative. Come dico, spero che ne possano venire in futuro delle altre. Direi che adesso è forse la Silvana che... do subito la parola allora a Anthony Mollo, prego di accomodarsi qui e così, grazie. Io ringrazio Schiera per le sue parole. Ringrazio tutti gli amici che vedo nel pubblico e anzitutto ringrazio gli studenti, i quali certamente avrebbero forse avuto la possibilità di fare altre cose un venerdì pomeriggio e invece si sentono e si trovano qua per seguire una lezione su un argomento che può o non può interessarli. Allora, mi è stato chiesto di parlare del mio libro e io ho deciso di presentare diciamo un insieme di dei problemi più importanti, almeno quelli che ho sentito io fossero più importanti, nel mentre stavo studiando e scrivendo questo libro, studiando il tema e poi scrivendo questo libro. E mi scuserete se leggo una cosa che ho scritto, perché mi sentirei molto più a mio agio avendo questo tipo di bastone. Allora, non posso che notare che famiglie molto antiche, come quelle che hanno posseduto uno stato considerevole di padre in figlio per molte generazioni in successione, sono molto rare in paesi commerciali. Contrariamente, in paesi che hanno poco commercio, come la Cornovaglia o le alture della Scozia, esse sono molto comuni. Ormai il punto di vista di Adam Smith è diventato un luogo comune. Per fiorire, le famiglie molto antiche richiedono una società stabile e aristocratica. La stabilità della terra si presta alla stabilità dei lignaggi aristocratici. Una generazione lascia alla successiva sue terre, sue castelli, sue ville. La terra diventa il legame che assicura la creazione di solidarietà familiari. Essa contribuisce alla creazione di complesse ed ingegnose strategie con le quali assicurare la trasmissione intergenerazionale della proprietà. Cinzio Violante, uno dei massimi medievisti europei, presentò in modo chiaro il nesso tra quello che lui chiamò coesione familiare e, anche quello cito, la trasmissione ereditaria della proprietà, particolarmente la proprietà immobiliare. D'altra parte, il commercio incoraggia l'individualismo e contribuisce alla ridistribuzione costante della ricchezza e con ciò mina la capacità delle famiglie di sopravvivere nel tempo. Fortune si perdono quasi tanto rapidamente quanto si guadagnano. Doti intellettuali e di carattere che assicurano il successo imprenditoriale non possono essere insegnate da una generazione a quella successiva. Circostanze che contribuiscono all'accumulo di fortune commerciali cambiano e con esse l'abilità di una generazione di proteggere guadagni accumulati da antenati. Ed è forse ironico il fatto che il successo nel mondo del commercio è spesso accompagnato dall'abbandono di quel mondo instabile ed imprevedibile per l'universo prevedibile e fastoso della nobiltà. Il fenomeno che Fernand Braudel definì come la trahison de la bourgeoisie e che lo storico americano Jack Hexter descrisse in termini lapidari, contribuì, forse più di qualsiasi altra causa, alle scarse possibilità di sopravvivenza di famiglie commerciali. Inoltre, nell'Europa tardo medievale moderna, il commercio e la cultura che esso generò fiorirono più che altrove in regimi politici che accentuavano impulsi di libertà e di individualismo. La libertà repubblicana è spesso stata vista come parte integrale dell'individualismo economico. Ambedue contribuirono alla creazione del mondo moderno. Ambedue sono evidenti nelle loro manifestazioni più precoci, in un piccolo numero di società medievali, innanzitutto negli stati territoriali dell'Italia, Germania e dei Paesi Bassi. Già adombrata nel pensiero di Locke e di Montesquieu, la tesi di Adam Smith si ritrova nel pensiero di numerosi pensatori politici ed storici, da Sismondi a Michelet, da Burckhardt ad un grande numero di storici recenti. Negli scritti di tutti questi pensatori, la stabilità dei nobili lignaggi terrieri si contrappone alla fluidità e fragilità delle famiglie repubblicane ed imprenditoriali, la disciplina e coercizione delle aristocratiche società feudali alla libertà radicata in ambienti commerciali e repubblicani. Il commercio e la libertà non sono le uniche ragioni offerte da studiosi per spiegare l'apparentemente breve vita di famiglie europee nel tardo Medioevo e nell'epoca moderna. Nel corso di questo secolo, un'altra spiegazione è stata avanzata ed ha raccolto grandi consensi in ambienti eruditi. Questa si può definire come una spiegazione epidemiologica. Johann Heutzinger ha scritto un libro fortunato che trae il suo spunto principale dalla onnipresenza della morte epidemica nell'Europa tardo-medievale. Più recentemente, nel suo Trattato elegante, Alberto Tenenti descrisse l'impressione sconvolgente che la mortalità esercitò sull'immaginario collettivo nel 300-400. Le conseguenze economiche e sociali del nuovo equilibrio ecologico sono state studiate soltanto nell'ultimo quarto secolo. Anche se recenti, questi studi hanno trasformato la nostra visione del corso della storia europea nel tardo Medioevo. È possibile che David Herlihy abbia contribuito più efficacemente di qualsiasi altro storico alla formulazione di questa nuova visione. In una serie di saggi che presentano una combinazione rara di generalizzazioni audaci e di ricerche sistematiche nei ricchi fondi degli archivi italiani, Herlihy ha potuto dimostrare che nel secolo e mezzo dopo la metà del 300 l'epidemia si trasformò da una forza debilitante ma esterna alla società ad una delle strutture più profondamente radicate nella Toscana tardo-medievale. Le perdite iniziali provocate dall'epidemia trasformarono le strutture demografiche. La società si dimostrò incapace di ristaurare l'equilibrio pre-epidemico. Queste trasformazioni diventarono caratteri permanenti della società toscana. In più, le rivisitazioni epidemiche nel corso di tutto il XV secolo e dopo minarono il morale dei sopravvissuti, generarono un'atmosfera di incertezza verso il futuro e crearono dei disincentivi per pianificare per il futuro e per proteggere beni materiali accumulati, sia per la fortunata coincidenza di essere sopravvissuti, sia per il successo nel mondo del commercio. Soltanto nel corso del XVI secolo, specialmente durante la seconda metà di un'era che fu demograficamente più stabile e politicamente più tranquilla, con il trionfo di regimi aristocratici e dispotici, si intravede in Italia l'adozione di valori e di una mentalità che erano già prevalsi in altre regioni del nord Europa. E allora, e solo allora, si può osservare, secondo questa interpretazione, l'insistente sollecitudine di famiglie toscane per inventare strategie con le quali proteggere i loro patrimoni dalla sfortuna, assicurarsi della loro trasmissione da una generazione all'altra, trasmettere ai figli e nipoti non solo terre, palazzi e ville, ma anche una consapevolezza di lignaggio, cioè una memoria collettiva del passato della famiglia e delle sue tradizioni, ed una proiezione verso il futuro delle fortune familiari. Anche se è vero che tutti gli elementi di questa interpretazione non sono stati pienamente articolati da un singolo studioso, frammenti di questo mosaico sono sparsi nella letteratura disponibile, e mi sembra indiscutibile che nelle sue linee principali l'immagine composita che emerge dalla letteratura esistente non differisce molto dalle idee che vi ho appena proposto. Gli storici che si sono soffermati sulla storia dell'Italia tardo-medievale sono stati colpiti dalle trasformazioni subite dalle famiglie nel corso del XIV e XV secoli. La solidarietà e solidità dei grandi clan, che secondo certi storici erano fioriti nel XII e XIII secoli, furono fatalmente minati dal commercio e dalla epidemia. È vero che qualche voce dissenziente si è fatta sentire nel mezzo di questo coro monofonico. Jacques Ayre aveva presentato sue opinioni sulla solidità dei clan patrici genovesi nella sua monumentale storia economica di Genova. Qualche anno dopo, nel suo libro sintetico, egli aveva vigorosamente sviluppato sue idee applicandole non solo alla storia della Liguria, ma anche ad altre regioni d'Italia. Ayre aveva sottolineato la resistenza dei grandi clan, i legami perduranti dei loro interessi materiali e di memorie familiari, le quali legavano in un'unità collettiva azioni e sentimenti di persone singole. Mi sembra interessante che gli studiosi che si sono concentrati sulla storia dell'Europa del Nord nel XIV e XV secoli sono anch'essi stati colpiti dalla fragilità di famiglie nobiliari. Né le istituzioni feudali, né il primato economico della terra, neppure i valori aristocratici di quelle società sembrano aver offerto, né tanto meno i valori aristocratici di quelle società sembrano aver creato un ostacolo a quello che sembrava fosse stata la tendenza prevalente, spazzando via famiglie in Francia, Inghilterra e Scozia. Edouard Perrois, nel suo studio famoso ormai sulla nobiltà di Forez, calcolò che quella classe perdeva circa metà dei suoi componenti ogni secolo e che la durata media di vita di ogni lignaggio fosse non più di 3 o 4 generazioni. K.B. MacFarlane, nel suo studio classico sulla nobiltà inglese nel tardo medioevo, calcolò che di un campione di 136 famiglie nobiliari nel 1300, solo 16 sopravvissero fino al 1500. Da questa osservazione traeva la riflessione su quello che lui chiamò lo sprecare continuo di queste case nobiliari. Alexander Grant rimarcò sugli alti tassi di estinzione di famiglie ducali e comitali scozzesi. E Sylvia Fropp, nel suo studio fondamentale su mercanti nella Londra tardo medievale, concluse che famiglie mercantili inglesi potevano sopravvivere per più di 2 generazioni solo con enormi difficoltà. E sulla base dei suoi studi suggerì che la famiglia mercantile, presumibilmente per le circostanze descritte da Adam Smith, cito, si stava appena riproducendosi. Le generalizzazioni raggiunte da storici del nord Europa hanno servito solo ad accentuare le idee prevalenti sulla società italiana. Nonostante le ipotesi e conclusioni di Jacques Ayre e di un piccolo gruppo di studiosi ispirati dal suo lavoro, l'immagine delle famiglie italiane nel nord e centro Italia è colorita da tinte di fragilità, sgretolamento, fallimento. Qualche studioso, particolarmente Hörlich, non ha mancato di accentuare le occasioni create da questa disintegrazione e di descrivere le nuove forme di organizzazione sociale che emersero dalla crisi ecologica tardo-medievale. Ma il tono dominante, come nelle pagine memorabili di Heutzinger, è di declino e di fallimento. In questo senso, storici recenti non si sono distanziati molto dai toni dei contemporanei quando descrivevano i loro tempi e circostanze. San Bernardino, predicatore francescano immensamente popolare nei primi decenni del 400, non si stancava mai di perorare sul declino della vita familiare nei suoi tempi. Abitudini sessuali erano cambiate, La gente era diventata egoista, non volendo più accollarsi le responsabilità matrimoniali. Conseguenza di tutto ciò era la forte diminuzione del numero dei bambini. Ripetutamente egli inveì contro questo tipo di degenerazione, invocando una rigenerazione morale che avrebbe di nuovo imposto un buon ordine sulla società. I toni usati da Leon Battista Alberti erano differenti da quelli di Bernardino, ma i contenuti dei suoi messaggi erano sorprendentemente simili. Le immagini infernali del predicatore furono sostituite dal discorso freddo ed erudito di quel brillante umanista, ma anche lui era preso da un senso di nostalgia per la famiglia Alberta, quando essa era stata potente, compatta e fiera di esserlo. La disintegrazione delle grandi famiglie era un'ossessione costante di questo figlio illegittimo di un importante uomo politico fiorentino, il quale, tanto per ulteriormente complicare la vita del figlio, aveva subito la sorte dell'esilio e la perdita di tutte quelle cose familiari, le quali investivano con significato e rinforzavano il senso di solidarietà di un grande clan come quello degli Alberti. La frase di apertura del famoso trattato di Alberti suona come un lamento funebre, un'evocazione melancolica del passato. Ripetendo a memoria quanto per le antiche storie e per ricordanza dei nostri vecchi insieme e quanto potemo ai nostri giorni come altrove così in Italia vedere non poche famiglie solere felicissime essere e gloriosissime, le quali ora sono mancate e spente. E continuò, non potendo contenere la sua esasperazione nel pensare quante si vedono oggi famiglie cadute e ruinate, delle quali tutte famiglie non solo la magnificenza e amplitudine, ma gli uomini, non è solo gli uomini, sono scemati e diminuiti, ma più è il nome stesso, la memoria di loro, ogni ricordo quasi in tutto si trova casso e annullato. Le parole veementi di un predicatore popolare e l'esasperazione di un umanista raffinato furono echeggiati in aule austere di palazzi pubblici dove uomini vecchi e saggi incaricati con il benessere della loro città si riunivano anche per discutere problemi come questo. A Firenze un tentativo fu fatto nel 1421 di proibire a uomini scapoli di accedere ad importanti cariche governative perché, secondo il ragionamento non esplicito di questa proposta, uomini non pronti a produrre una prole legittima non dovrebbero essere incaricati con importanti responsabilità politiche. Simili iniziative furono prese sia a Lucca che a Borgo San Sepolcro. Non ci dovrebbe essere difficile apprezzare le ragioni per la visione profondamente pessimistica dei contemporanei. L'epidemia era onnipresente nelle loro vite. La sua devastazione era tanto straordinaria quanto la sua riapparizione era imprevedibile. Era difficile rimanere ottimisti in queste circostanze. Il costo in vite umane esatto dalle periodiche visitazioni dell'epidemia erano devastanti, alla collettività come alle sensibilità dei singoli. Nel corso del XV secolo la peste fece la sua apparizione almeno 8 volte, dal 1400 al 1478. Queste erano brevi ed acute conflagrazioni, ciascuna delle quali imponeva perdite umane devastanti. È stato calcolato che nel corso di una di queste conflagrazioni il tasso di mortalità delle fanciulle nubili si aggirava sul 10% all'anno. Questo è stato l'unico gruppo per il quale sono stati raccolti dati sistematici e le cui possibilità di sopravvivenza sono state studiate con un minimo di precisione. Ma non sembra che le sorti di donne nubili fossero molto differenti da quelle di altri gruppi. E non è che le perdite umane fossero limitate ai tempi di conflagrazioni epidemiche. L'epidemia era endemica nella società tardo-medievale. La sua apparizione, tanto temuta quanto anticipata, generava un atteggiamento di guardia continua, perché tutti temevano per le loro sorti, una litania di dolore e costante accompagnatore della loro vita. La celebre descrizione dell'epidemia del 1348 scritta da Boccaccio, anche se pienamente familiare, non può che colpire il lettore per l'orrenda immagine di disgregazione sociale che ne dipinge. Guardandosi attorno dopo la devastazione della grande epidemia, il poeta vide un mondo non differente da quello che Leon Battista Alberti avrebbe descritto un secolo dopo e fu costretto ad esclamare: «Oh, quanti grandi palagi, quante belle case, quanti nobili abituri, per addietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al meno mofante rimaser voti. O quante memorabili schiate, quante amplissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere. Non è sorprendente, dati questi casi e molti altri che si potrebbero citare, che gli storici si sono soffermati sulla fragilità di gruppi familiari nell'Italia tardo-medievale. Com'era possibile agli ignaggi sopravvivere sotto queste circostanze? Eppure esiste un caso, né difficile da identificare, nemmeno trascurabile, che sembra non convalidare l'immagine suggerita in questa breve rassegna. Questo è il soggetto del mio recente libro, cioè il caso della classe dirigente fiorentina dalla seconda metà del XIV ai primi decenni del XVI secolo. Non è mia intenzione suggerire che in qualche modo l'esperienza fiorentina fosse singolare. Non avrei nessuna intenzione, infatti, di proporre qui l'ipotesi di un eccezionalismo fiorentino, tema caro a qualche storico fiorentino e a molti storici non italiani. E sembra possibile che l'immagine che emerge dalle pagine del mio libro possa riferirsi anche ad altre società italiane ed europee, anche se ora sembra prematuro fare una tale asserzione. I fatti che mi hanno colpito sono questi. Chi fosse familiare con i dati essenziali della storia fiorentina nel XVI, XVII e XVIII secoli, avrebbe poca difficoltà a riconoscere i nomi delle famiglie principali della città nell'epoca di Dante, di Giotto e di Dino Compagni, oppure in quelle successive di Leonardo Bruni e Brunelleschi, oppure ancora di Lorenzo dei Medici e di Machiavelli. Sembrerebbe che certe famiglie, essendosi arroccate in una posizione di privilegio nel corso del Trecento, poterono difendere i loro privilegi economici, politici e simbolici per un periodo molto lungo. Sembrerebbe che queste famiglie si siano comportate in modo piuttosto sorprendente, specialmente se giudicate sulla base di quello che molti storici hanno scritto sull'Europa tardo-medievale. La loro resilienza apparirebbe imprevista, la loro capacità di resistere alle sconfitte ecologiche, economiche e politiche inattesa. Oggi, anche un visitatore casuale a Firenze non potrebbe che rimanere impressionato dalla continuità di nomi di famiglia nel corso di molti secoli. Una breve passeggiata lungo via Guicciardini, una strada spesso attraversata da turisti perché conduce dal Ponte Vecchio a Palazzo Pitti, porterà il nostro visitatore davanti alla lapide che ricorda la distruzione nel corso della Seconda Guerra Mondiale del Palazzo Machiavelli. Di faccia si può ammirare l'imponente casa patrizia dei Guicciardini, accanto alla quale è situato il Palazzo Pitti, residenza sia dei Pitti che dei Medici. Per secoli questi palazzi furono occupati dai discendenti degli ignaggi responsabili per la loro costruzione nel Medioevo. Qualche centinaio di metri a nord-ovest di Ponte Vecchio, questo visitatore si imbatterebbe sull'enorme Palazzo Strozzi, il cui mezzo millennio di vita si celebrò nel 1989 e il quale fu ininterrottamente occupato da componenti della famiglia Strozzi dal 1489 fino agli anni 30 di questo secolo. L'impressione formata da questo turista casuale sarebbe di una lunga stabilità nella vita sociale di Firenze. Nomi e luoghi sembrano essere rimasti immutati nella lunga storia di Firenze. Questa impressione non sarebbe sbagliata. Nel suo recente libro sui patrici fiorentini nel periodo granducale, Arbor Litchfield, uno studioso americano, fu colpito dalla capacità dei granduchi di attingere alle risorse più che altro umane della vecchia classe dirigente cittadina per fornire di personale la loro corte e la burocrazia dello Stato. Litchfield identificò un gruppo di 714 famiglie, le quali collettivamente formarono la élite fiorentina del XVI-XVII secolo. In un appendice molto utile del suo libro, egli notò l'anno, o nel caso che quello mancasse, il periodo generale, quando ogni famiglia entrò per la prima volta alla cerchia della classe dominante della città. Ebbene, 463 di queste 714 famiglie, ossia il 67,5% del totale, furono chiamati a sedere nel priorato, la magistratura suprema della Repubblica, prima del 1500. Di queste, 183 entrarono nel priorato prima della grande epidemia del 1348. Contrariamente alle lamentele di Boccaccio e di Alberti, l'impressione perdurante trasmessa da questi dati è di resilienza, di adattamento, di successo a sormontare le probabilità di estinzione. Si potrebbe formare la stessa impressione sulla base di un altro gruppo di cifre, compilate nel corso del mio studio. Nel mio libro ho presentato una discussione dettagliata dei criteri coi quali ho identificato la classe dirigente della città. Per non annoiarvi ulteriormente, vi risparmio questa discussione tecnica. Qui basta notare che nel corso della mia ricerca sono arrivato alla cifra di 417 famiglie, le quali, secondo me, formavano la classe dirigente della città dalla seconda metà del XIV ai primi decenni del XVI secoli. 285 di quelle famiglie, più del 68% del totale, sono comprese nell'elenco di Litchfield. Ben oltre la metà delle famiglie i cui membri si distinsero nella vita politica ed economica del XV secolo continuarono a approfittare della loro preminenza nel corso dell'epoca moderna. Allora, chi osserva la classe dirigente fiorentina da un punto relativamente vicino a noi, guardando indietro nel tempo, oppure da un punto di osservazione più lontano per guardare avanti, formula la stessa impressione di continuità e di stabilità. Le domande che sorgono da queste considerazioni sono semplici. Com'era possibile per quelle famiglie di sormontare le difficoltà e continuare a cogliere successi per un periodo così lungo? Quali strategie, approcci e difese furono adottate da famiglie benestanti per proteggere la loro posizione di privilegio? Finalmente, da quale prospettiva sarebbe opportuno che noi osservassimo le loro azioni e reazioni nel mentre loro, intrappolati in circostanze al di sopra del loro controllo e spesso anche della loro piena comprensione, si aggrappavano ad ogni espediente per costruire una difesa contro i capricci della fortuna, descritti con tanta eloquenza da Machiavelli nel famoso capitolo 25 del Principe. In fin dei conti, come Alberti aveva sottolineato nel suo trattato sulla famiglia, la loro sopravvivenza dipendeva su quelle stesse qualità di virtù che un'ottantina di anni dopo Machiavelli avrebbe esortato il principe di coltivare. Il problema della sopravvivenza delle famiglie, particolarmente di famiglie urbane e commerciali nell'Europa tardo-medievale, ha attirato scarso interesse storico. Lo stesso non può dirsi di famiglie nell'Europa moderna. Infatti, in anni recenti, molti modernisti sono stati particolarmente solleciti a questo tema. Non mi sembra il caso elencare qui i nomi di questi storici dei loro lavori. Basta dire che un esame dei loro libri, spesso molto importanti, suggerirebbe una gamma di spiegazioni per i fenomeni che ci interessano. Qualche storico ha privilegiato spiegazioni demografiche, come le discussioni annesse sulla grandezza e struttura della famiglia, tassi di matrimoni, fertilità e mortalità e l'impatto che ricchezza, residenza e professione ebbero su questi fenomeni. Altri storici si sono concentrati su considerazioni che possiamo chiamare più propriamente culturali, cioè norme di eredità e modelli di devoluzione di proprietà. Mi sembra che ci sia una lezione fondamentale che emerge da questi studi. Nell'Europa moderna, alle istituzioni gemelle del matrimonio e della dote, va assegnato un posto di privilegio nelle storie plurisecolari delle famiglie abbienti. In Italia non ci poteva essere matrimonio senza dote, né ovviamente una dote senza matrimonio. La gamma di problemi storici sollevati da queste istituzioni incide su una molteplicità di fenomeni sociali. Demografia, specialmente l'età di matrimonio dei coniugi e nel caso che non tutti i figli giunti ad un'età matrimoniale si sposavano, l'identità di quelli abilitati al matrimonio e l'ordine nel quale si sposavano. Fenomeni economici e giuridici, nel senso che vanno identificati problemi che riguardano le risorse materiali trasmesse dalla sposa e sua famiglia al marito e alla famiglia di lui, gli usi di questi beni durante il matrimonio e la loro disposizione al momento della sua dissoluzione e i vincoli giuridici e le garanzie economiche che i mariti e le loro famiglie erano obbligati ad offrire per salvaguardare i beni assegnatili. Finalmente, rapporti sociali. Perché l'istituzione del matrimonio nell'Europa premoderna non era basata tanto su un atto di volontà di due individui, quanto su decisioni delle loro famiglie, un fatto che rende necessario di studiare i loro valori etici e morali e le storie di quelle collettività di famiglie che abitualmente e reciprocamente si scambiavano mariti e mogli. Il matrimonio consentiva a famiglie di riprodursi nel senso biologico e di legittimare la loro prole secondo le norme culturali della loro società. La dote stabiliva norme sulla trasmissione intergenerazionale della proprietà, particolarmente alle figlie della famiglia, in una forma di eredità ante mortem. Sia il matrimonio che la dote sollevano problemi dei rapporti tra gruppi di persone. Su un livello generazionale orizzontale, mentre gli adulti e i vecchi delle famiglie negoziavano tra loro i matrimoni dei loro figli e nipoti, su un livello verticale, con le generazioni vecchie che trasmettevano le loro proprietà ai loro discendenti. Come si potrebbe studiare l'istituzione del matrimonio dalla prospettiva delle domande appena sollevate? Quale fu il rapporto tra l'istituzione del matrimonio e il successo delle famiglie principali di mantenere la loro posizione di privilegio per molti secoli? Ripetutamente nelle pagine del mio libro cerco di sottolineare l'importanza dei rapporti tra le famiglie fiorentine. Suggerisco che erano i legami tra queste famiglie, legami sorti grazie agli scambi di persone e di proprietà, e legami resi ancor più duraturi dalla memoria di questi, spesso multipli scambi, che potrebbero offrirci la base di un'ipotesi interessante per spiegare la lunga sopravvivenza di queste famiglie. Se Firenze ebbe una classe dirigente e non solo una serie di fazioni che si susseguivano nel controllo più o meno breve della città, le parti costituenti di questa classe dirigente furono le sue famiglie principali e i legami tra loro erano vitali per intendere non solo le loro storie singole, ma anche la loro storia collettiva, cioè la storia della classe dirigente. Famiglie potevano forgiare dei rapporti con altre famiglie grazie ad una miriade di circostanze. La vendita o l'acquisto di proprietà stabiliva un tipo di rapporto, debiti stabilivano un altro tipo di rapporto, il vicinato ancora un altro. Si potrebbe continuare con l'enumerazione di una varietà di situazioni le quali, nella Firenze tardo-medievale, legavano in intrecci di scambi materiali, di dipendenze personali, di rapporti spirituali, una famiglia ad altre. Ormai è chiaro dalla lezione impartitaci da storici ed antropologi di varie società in epoche anche tra loro diverse, che il più complesso e duraturo di questi rapporti era stabilito al matrimonio. Dimmi con chi ti sposi e ti dirò chi sei. Questo proverbio, che uno incontra in molte regioni mediterranee, dà l'idea, nel linguaggio schietto della saggezza popolare, quello che studiosi hanno scoperto sulle società premoderne. Gli antropologi ci hanno ricordato che ogni società ha le sue regole su chi una persona può o non può sposare. I matrimoni non avvenivano in modo casuale, certamente non erano il risultato di infatuazioni e di preferenze personali. Un calcolo complesso e preciso era evidente, specialmente quando un matrimonio stabiliva dei rapporti tra famiglie che possedevano capitale, sia materiale che simbolico. Anche se gli storici hanno avuto qualche difficoltà a scoprire le regole che governavano i rapporti matrimoniali tra famiglie di società passate, la magistrale ed imponente ricerca di Gérard de Lisle sulla storia delle famiglie napoletane dal XVI al XVIII secolo avrebbe ormai dovuto rendere tutti noi un po' più cauti nell'attribuire alla casualità quello che chiaramente era risultato di calcoli precisi. Potrebbe essere utile qui aprire una parentesi per descrivere un caso specifico al quale faccio riferimento nel mio libro. Questo caso, tipico di molti altri, mi consente di illustrare l'estrema cura con la quale le famiglie della classe dirigente fiorentina preparavano i matrimoni dei loro figli e la complessità di questi negoziati. Qui potete seguire la citazione nel foglio che vi è stato distribuito. In coincidenza con il nuovo anno, il 25 marzo 1461, Gino di Filippo Rinuccini, scapolo 39enne e membro di una delle famiglie più eminenti della sua città, scrisse questo ricordo nel suo libro di ricordanze. Ricordo come fino ieri, che fu il 24 di marzo 1460, Filippo nostro padre, Alamanno mio maggior fratello e Lorenzo di Neri Vettori e tutt'altri nostri di casa rimannemo d'accordo con Ugolino di Niccolò Martelli, per mezzo d'Andrea di Niccolò Carducci e Lorenzo di Neri Dagnolo Vettori, di fare insieme parentado, cioè che il detto Ugolino mi dessi perdono alla Ginevra sua maggiore figliuola d'età d'anni 16 e un terzo circa, condotta di fiorini 1400 d'oro, a dare in questo modo, cioè, salto la frase che riguarda le modalità di pagamento, e perché fra detta Ginevra e me è alquanto di legame di parentado, cioè che detta Ginevra è discesa dei Rinuccini in quarto grado, cioè da Messer Francesco dal lato di madre, e io sono in terzo del detto Messer Francesco dal lato di padre, cioè Gino di Filippo di Gino di Messer Francesco Rinuccini, e Ginevra di Madonna Betta, di Madonna Ginevra, di Madonna Filippa, di Messer Francesco Rinuccini, bisognò che il Papa dispensasse sopra ciò e desse licenza che noi potessimo imparentare. E così si fece. Però che commesse a Messer Orlando Bonarli, arcivescovo di Firenze, che dovesse aver buona informazione sopra questo caso e vedere se era in terzo grado o quarto grado, come gli fu porto. E trovando essere così, detto arcivescovo, potesse dare licenza e dispensare, e così seguì. Però che, essendosene benissimo informato, detto arcivescovo mandò per le parti e comparimmo dinanzi a lui Ugolino e Dio, e richiedendolo di comune concordia, ci dette piena licenza che potessimo fare insieme parentado. E di tutta questa cosa fu rogato Ser Baldovino di Domenico Baldovini, notaio all'arcivescovado. Ricordo, continua Gino Rinuccini, come questo dì 28 di marzo 1461, che fu il sabato, Filippo mio padre, con compagnia d'alquanti più stretti nostri parenti, in numero di circa 20, ed io insieme con loro giurai, e detto Ugolino Martelli mi promise la sopradetta Ginevra per mia donna nella chiesa di Santa Maria in Campo, con quella quantità di dota che giudicasse Giovanni di Cosimo dei Medici e Lorenzo di Neri d'Agnolo Vettori, nei quali ne fu fatto libero compromesso, i quali lo dorono come erano d'accordo, nel modo che di sopra nell'altro capitolo, cioè primo, si contiene, e fu rogato, eccetera. Commenterò questo passaggio abbastanza dettagliatamente ora, è possibile che vorrete seguire un po' i nomi e i dettagli nella trascrizione del testo. Autori di libri fiorentini di ricordanze erano abituati a fare annotazioni dettagliate sulle circostanze che circondavano i loro matrimoni. In questo senso la descrizione di Gino è abbastanza ordinaria, anche se contiene una serie di dettagli che ci consentono di ricostruire qualcheduna di queste reti di rapporti che normalmente creavano il quadro all'interno del quale negoziati matrimoniali erano condotti. Gino identifica quattro momenti nel corso dei negoziati, quando individui a lui vicini furono chiamati in causa nelle discussioni con la famiglia Martelli. Per cominciare ci fu la mediazione di Andrea di Niccolò Carducci e di Lorenzo di Neri di Agnolo Vettori. Sembra che questi due si fossero inizialmente rivolti, oppure erano stati sollecitati a rivolgersi, alle due famiglie, avviando i primi tenui contatti sulla possibilità di arrangiare questo matrimonio. Dopo si arrivò all'accordo tra il padre della sposa e i membri della famiglia dello sposo, cioè il suo padre, il suo fratello maggiore, Lorenzo Vettori, il quale era stato uno dei due intermediari, e di tutt'altri di casa nostra, e tutt'altri di casa. Gino non identificò se stesso come uno dei partecipanti a questi negoziati, ma è probabile che implicitamente riferì anche a se stesso quando, all'inizio del ricordo, scrisse che tutt'altri di casa nostra rimanemmo d'accordo con Ugolino Martelli. A questo punto le due famiglie vararono un accordo legale sull'ammontare della dote e sulla modalità del suo pagamento. Il terzo momento nei negoziati avvenne quando, quattro giorni più tardi, nella chiesa di Santa Maria in Campo, dove Cino, nella presenza di suo padre e di circa 20 tra i suoi più vicini parenti, tutti presumibilmente maschi, giurò di sposare Ginevra, mentre il padre di lei promise di dare sua figlia a Cino. La descrizione di Cino non specifica se Ginevra fosse presente in questa cerimonia. È improbabile che lo fosse, anche se questo punto non sembra cruciale per la mia analisi. Finalmente, nel corso di questa occasione solenne, due persone, ognuna delle quali godeva dei buoni rapporti con le due famiglie, furono assegnate la responsabilità rituale di fissare l'ammontare della dote da pagarsi dai Martelli ai Rinuccini. In questo caso le due persone il cui onore sanzionava questa transazione erano Lorenzo Vettori, già coinvolto due volte in fasi importanti di questa vicenda, e il figlio cadetto di Cosimo dei Medici, Giovanni, rappresentante della famiglia principale della città. Gli uomini che circondavano Cino nel corso dei negoziati del suo matrimonio erano tutti membri della sua famiglia, non semplicemente della sua famiglia immediata, ma di quel mondo dei rapporti familiari che avvolgeva ogni fiorentino della sua classe e stato. Per primi c'era suo padre, e siccome Cino era il secondogenito di 7 maschi, suo fratello maggiore, Alamanno. Oltre questi, Gino identificò per nome 2 altri parenti, uno dei quali sembra avesse preso più di un interesse casuale in questi negoziati. Nessuno dei 2 era un suo parente di sangue, ambedue essendo legati a lui a causa di rapporti matrimoniali della sua famiglia. Lorenzo di Neri Vettori e Andrea di Niccolò Carducci. Il primo era suo zio materno, l'altro era stato sposato vari decenni prima ad una sua cugina paterna. Si vede allora che interessi di vari gruppi della famiglia Rinuccini erano stati rappresentati nei negoziati che Gino ci descrive. Innanzitutto la famiglia immediata, in più una cerchia più vasta di parenti, tra i quali vale la pena soffermarci sui Vettori, legati ai Rinuccini grazie al matrimonio di Tessa Vettori, in una data imprecisata, prima del 1419, al padre di Gino. Salto un po' per accorciare. 40 anni dopo il matrimonio Vettori-Rinuccini, l'importanza di questa alleanza era sentita da ambedue le famiglie, da Cino stesso, le cui azioni erano guidate dal fratello della madre, e da quest'ultimo, il quale, prestando il suo nome e prestigio al matrimonio del nipote, condivideva inevitabilmente la responsabilità per questa nuova alleanza. Allora, quali sono i gruppi rappresentati in questo, in questi negoziati? Il padre, il fratello, un zio paterno, un zio materno e un numero imprecisato, ma non esiguo, di altri parenti. La profondità di questi legami è ulteriormente sottolineata dal breve suggerimento delle complicazioni create dal fatto che i Rinuccini e i Martelli godevano già di alquanto legame di parentado. La definizione di questa vaga espressione ci permette di descrivere con maggior precisione le pratiche sociali di Cino e dei suoi contemporanei. È importante notare che non dobbiamo nutrire incertezze sul significato preciso del termine alquanto legame di parentado, perché in quello stesso passo Cino ci offre i dati necessari con i quali interpretare le sue parole. Sia lui e sua moglie erano discendenti del bisnonno di Gino, un tale Francesco di Gino Rinuccini. Il legame genealogico tra Gino e Francesco si stabilisce molto facilmente. Ogni passaggio generazionale, da Francesco al nostro Gino, fu effettuato attraverso il ramo maschile dei Rinuccini. Gino, essendo figlio di Filippo, il quale era figlio di Rinuccino Senior, il quale finalmente era stato figlio di Francesco. La ricostruzione di questa sorta di genealogia patrilineare era comune tra i contemporanei di Gino e fu spesso praticata dai suoi contemporanei. Ma l'informazione offerta da Gino sulla genealogia di sua moglie e la loro discendenza di un antenato comune era relativamente inusuale. Gino descrive che Ginevra era la bispronipote di quello stesso Francesco Rinuccini, il quale era bisnono suo, cioè di Gino. Egli precisa che Ginevra era figlia di Betta. Betta era figlia di un'altra Ginevra. Questa Ginevra senior, a sua volta, era figlia di Filippa, la quale in prime nozze era sposata a Tommaso di Giovanni Ricci, e finalmente questa Filippa era stata la figlia di Filippo Rinuccini. Perciò la linea di successione coinvolgeva 4 passaggi intergenerazionali, ognuno attraverso la linea femminile. Questa memoria imponeva a Gino il compito di ricostruire la discendenza di Filippo anche per i matrimoni di antenati femminili. Nel suo caso doveva avviare una ricerca con la sorella di suo nonno paterno e via via stabilire legami matrimoniali di una serie di discendenti femmine di questa prozia. Purtroppo non possiamo soffermarci su altri esempi di questo tipo. Per gli studenti presenti, esempi del genere, qualcheduno addirittura più bello e pittoresco di quello che ho appena citato, offrirebbero un'idea di quanto interessante e accattivante sia fare una ricerca del genere, a metà strada, se si vuole, tra l'antropologia e il voyeurismo. Ma il tempo stringe e dobbiamo ritornare sui temi più generali che ho cercato di presentare nel mio libro. Nel caso delle famiglie fiorentine del tardo Medioevo ci sono certi fatti che mi hanno colpito. Ho già detto che nel corso della mia ricerca ho formulato una definizione della classe dirigente fiorentina e che, secondo i miei calcoli, 417 famiglie ne facevano parte. Di queste ne ho estratto 110, la vera elite, che sorpassavano le altre famiglie in risorse materiali, potere politico, prestigio. Nel mio libro ho cercato di stabilire il modello di alleanza matrimoniale che si può intravedere osservando il comportamento di queste famiglie. Per il momento basta citare qualche cifra, emblematica della tendenza che analizzo in maggior dettaglio nel libro. Qui mi riferirò al caso delle 189 alleanze matrimoniali della famiglia Rinuccini, stessa famiglia di Gino, dalla seconda metà del XIV secolo alla metà del XVI. Sono tutte le alleanze matrimoniali dei Rinuccini che ho potuto individuare. Soltanto due di questi matrimoni, 1,1% del totale, stabilirono alleanze con famiglie non fiorentine. Evidentemente, alla stragrande maggioranza dei Rinuccini furono trovati coniugi fiorentini, dei quali la maggioranza apparteneva alle 417 famiglie della classe dirigente, così come l'ho definita. L'84% delle donne Rinuccini ebbero mariti che provenivano da quel gruppo di famiglie, mentre l'85% degli uomini Rinuccini trovarono le loro mogli in quello stesso ambiente. Se ci soffermassimo ulteriormente sulle sorti matrimoniali dei Rinuccini, essi stessi membri della più ristretta cerchia delle 110 famiglie più eminenti, scopriremmo che essi trovarono il 55% dei loro mariti e il 62% delle loro mogli in questa stessa cerchia più ristretta. I Rinuccini non erano gli unici del loro status a comportarsi in tale modo. Tutte le famiglie fiorentine, le cui fortune matrimoniali ho potuto studiare, rivelarono modelli di alleanza matrimoniale simili. Un breve confronto, senz'altro problematico, ma comunque interessante, potrebbe darci un'idea del significato di queste cifre. Nel suo studio sulla nobiltà inglese del Settecento, John Cannon scoprì che, secondo il periodo studiato, i matrimoni endogamici, espressione con la quale egli si riferisce ai matrimoni dei pari inglesi tra loro, questi matrimoni endogamici variava, il tasso di matrimoni endogamici variava dal 60 al 72%. Colpito da questo fenomeno, egli rifletteva, e cito, che è difficile vedere come un tasso endogamico superiore potrebbe essere raggiunto in una società libera. Non vorrei qui soffermarmi sull'ambiguità dell'espressione libera, particolarmente quando è riferita a tassi endogamici talmente alti. Qui mi basta notare che i tassi di endogamia che prevalevano tra i membri della classe dirigente fiorentina nel XV e XVI secoli non furono dissimili a quelli osservati nell'Inghilterra del Settecento. I fenomeni brevemente descritti fin qui mi hanno abbastanza colpito, ma quello che mi sembra ancor più rimarchevole è la realizzazione che un tasso talmente alto di endogamia risultava non solo a ripetuti scambi matrimoniali tra un numero piuttosto ristretto di famiglie, ma anche ad una costante circolazione di risorse materiali nella forma di beni dotali all'interno della stessa cerchia. Si poteva anticipare che i beni che partivano da una casa per un'altra sarebbero rientrati, raramente in modo diretto, ma quasi sempre dopo aver seguito una traiettoria indiretta e a volte contorta, al loro punto di partenza, da dove sarebbero ripartiti in direzioni più o meno prevedibili. I rapporti tra le famiglie erano costantemente mediati, non solo dal continuo scambio di coniugi, ma anche di doti. Le doti come il matrimonio consentivano l'emergere di forme di dipendenza strette e durature, creavano obblighi ed aspettative ed ispiravano nella gente una consapevolezza del proprio interesse e di quello delle famiglie nuovamente alleate ad essi. Con l'eccezione di circostanze del tutto eccezionali, il tempo non logorava questi rapporti, al contrario, con il passare del tempo essi si rinsaldavano. La partecipazione stessa nel dare ed avere dotale generava un insieme di reti di rapporti vicendevolmente consolidate, che era nell'interesse reciproco di tutti di mantenere. Tutti erano in qualche modo coinvolti in questi rapporti. Chi dava risorse materiali, chi le riceveva, chi sperava, anche se non nel futuro immediato, di approfittarne. E tutti quanti che nei loro ruoli di garanti avevano la responsabilità di assicurare il rispetto e l'applicazione dei patti dotali. Data la complessità degli interessi toccati dall'istituzione dotale, non è affatto sorprendente che esso provocò conflitti spesso acuti. Domande sul controllo dei beni dotali sorgevano con regolarità prevedibile. Tali questioni si ponevano grazie ad un numero quasi infinito di contingenze, nel corso del matrimonio, dopo la sua dissoluzione, in periodi di incertezze finanziarie, della famiglia del marito, della moglie, nei casi di multipli matrimoni e la presenza di eredi che erano fratellastri e sorellastri. Questi conflitti rappresentavano l'altra faccia della medaglia che definiva i legami stabiliti al momento del matrimonio. Ironicamente, secondo me, il conflitto sopra i beni dotali creava dipendenze ancora più strette tra famiglie, i cui interessi materiali erano già strettamente interconnessi. Queste dipendenze, inevitabilmente attenuavano una concezione individualistica della proprietà e facevano nascere un forte senso di comunità di interessi radicati nei beni dotali. In fin fine ci si potrebbe chiedere a chi apparteneva una dote, alla moglie e alla sua famiglia, al marito e alla sua, e come accomodare le pretese dei figli della moglie sulla dote. I vincoli sulla gestione della dote da parte dei mariti erano tanto precisi quanto erano gli obblighi dei padri di dotare le proprie figlie. Ogni marito e sua famiglia doveva offrire complesse garanzie per assicurare che proprietà equivalente al valore della dote sarebbe disponibile al momento della terminazione del matrimonio, per restituirla alla vedova o, se essa fosse morta, ai suoi eredi. Salto per abbreviare, sono quasi arrivato in fondo. In più, le doti svolgevano una funzione simbolica. In un senso semiotico, esse segnalavano il posto sociale di una famiglia, erano un segnale tangibile e pubblico del suo stato e della sua determinazione di continuare a occupare quello spazio sociale insieme ad un altro gruppo di famiglie di rango equivalente. Un padre dotava la propria figlia non secondo capriccio, ma secondo chiare nozioni sull'ammontare che una persona del suo rango sociale doveva dare. Era ugualmente improprio essere troppo avari quanto stravaganti. Così si diventava ridicoli per essere considerati troppo ambiziosi e socialmente goffi. Come Cisti, il fornaio, nella novella famosa di Boccaccio, i fiorentini del XV secolo sapevano perfettamente bene quale era il loro posto sociale, quanto era loro obbligo dare alle loro figlie e che cosa fosse ragionevole ricevere in forma di doti. Le doti, insomma, erano barometri simbolici dello status delle famiglie ed era un metro efficiente perché informazioni sulle doti circolavano ampiamente a Firenze. In una cultura urbana dove attività che noi assegniamo alla sfera privata erano conosciute pubblicamente e spesso commentate sia oralmente che in scritto, gente curiosa non poteva trattenersi dall'osservare molto attentamente negoziati su patti dotali. Non vorrei dilungarmi molto più a lungo, perché già mi sembra di aver abusato della vostra pazienza. Prima di chiudere, mi permetto di far riferimento ad un breve saggio recentemente uscito su Quaderni Storici, dove ho cercato di analizzare la memoria genealogica di Giovanni Rucellai, uno dei grandi personaggi fiorentini nella seconda metà del Quattrocento. Quello che emerge dalla memoria di Rucellai è la consapevolezza profonda e profondamente radicata nella sua mente dei legami matrimoniali che sia dal lato maschile che femminile nel corso di 4 generazioni i Rucellai avevano stabilito con un numero enorme di famiglie fiorentine. L'immagine che emerge dal famoso Gibaldone di Giovanni è che i Rucellai erano inestricabili da mezza la città, da dozzine d'altri lignaggi mezzo alla città è una sua espressione, da dozzine d'altri lignaggi altrettanto distinti, con i cui membri, una generazione dopo l'altra, venivano orditi e riorditi parentadi, in ricchi quadri di connessioni personali e materiali. Qualunque altro significato abbia avuto per Giovanni Rucellai questa parola, città, la città, spazio fisico adorno delle strutture reali descritte amorosamente altrove nello Gibaldone, o l'entità politica nel cui governo spinge talora i figli ad impegnarsi o da cui li esorta a tirarsi fuori, È poco discutibile che per lui città significhi altrettanto principalmente la collettività di quei lignaggi con cui i Rucellai intrecciarono nel tempo i parentadi. Un significato che uomini del suo status e donne come Alessandra Strozzi mostrarono di condividere. Questa era dopo tutto la visione della società fiorentina che un altro famoso fiorentino del 400, Matteo Palmieri, aveva espresso due generazioni prima, scrivendo della vita civile, dove si era immaginato la città come un insieme di lignaggi che per abitare il medesimo spazio fisico e condividerne l'idioma morale, cito, danno e ricevono in legittimo matrimonio e legati da parentela s'assistono l'un l'altro caritatevolmente e si danno l'un l'altro consiglio, favori e assistenza, ciò che nel corso della vita risulta in azioni, avvantaggia e porta frutti abbondanti. La città come un aggregato di lignaggi interconnessi, che collettivamente definiva l'universo morale abitato dalle famiglie che comprendevano quel mondo. Era questo il mondo della Firenze patrizia delle classi alte nel XV secolo. Da questa idea basilare emergono delle conseguenze chiare, che donne, proprietà, sentimenti e memorie di comuni antenati circolassero fra i membri di questi lignaggi, di modo che dei loro interessi collettivi e del loro stato sociale la civitas divenisse l'incarnazione e il governo un poderoso scudo. Tale continua circolazione di generazione in generazione intrecciava queste persone in una comunità i cui membri avevano una consapevolezza dei loro condivisi interessi ed una percezione della loro diversità dai loro concittadini, caratteristiche che già nel XV secolo, come anche nel XVI e oltre, impartirono alla società fiorentina un ordine sociale sempre più gerarchico ed incrostato, ben diverso dal dinamismo e dalla mobilità sociale del XIII e XIV secoli. Grazie. Ecco, i lampi che Antonio Molo ci ha lanciato, no? Su questa straordinaria complessità, sulla trama composta, insomma, del tessuto sociale della Firenze del 400, credo siano davvero utilissimi per spingerci a leggere tutti quanti il tuo libro, che dovrebbe effettivamente darci. No, è impressionante soprattutto per noi tutti, la considerazione che riguarda la necessità di considerare i rapporti a Firenze, ma in tutta la società della prima età moderna, a prescindere dalla concezione che oggi abbiamo del privato e del pubblico, insomma. Ecco, questo mi sembra una cosa estremamente importante e quindi credo che per questo motivo temi come questi siano estremamente utili per rimettere in discussione punti di vista che noi consideriamo assolutamente sicuri, indubitabili, immutabili, sempre esistiti, eterni, da sempre e per sempre, mentre non è affatto così, come dimostra, mi pare, ogni giorno anche la nostra vita, no, proprio vissuta, insomma, che è caratterizzata appunto dalla mescolanza progressiva di elementi privati e di elementi pubblici. Il privato e il pubblico sono davvero due, come dire, strutture, se è possibile dire così, culturali, che cambiano in continuazione nel loro reciproco rapporto, e questa esperienza che Molo ha ricostruito, mi pare, in maniera assolutamente viva, insomma, eccetera, ci mostra come è davvero il caso ogni volta di tornare a riflettere sopra queste cose. Il fatto che questo discorso che tu ci hai fatto e che hai fatto nel tuo libro tocchi, secondo me, anche un altro punto che anche qui all'Istituto abbiamo tanto, insomma, studiato, coltivato, che è quello della disciplina, del disciplinamento sociale, cioè della individuazione proprio di criteri e anche di strumenti per regolare, no? I rapporti fra l'individuo e i gruppi, è un altro motivo in più per essere felice di avere potuto ospitare questo incontro qui. Anche su questo tema di disciplinamento l'Istituto ha appena pubblicato un libro curato da Prodi, e credo che anche questo discorso è un discorso che viene a arricchire la tematica privato pubblico. Adesso io penso, spero, insomma, che gli interventi che seguiranno forse proprio cercheranno di commentare, insomma, il libro di Molo e il suo intervento di adesso sotto forse proprio questo duplice profilo, insomma, quello più, diciamo così, relativo alla storia sociale e quello più relativo forse anche al pubblico, insomma, no? Se non allo Stato, certo ai problemi dell'organizzazione del potere. Credo che ora tocchi forse alla Elena Fasano Guarino di parlare, e quindi la invito qui, io nel frattempo mi assento, e quindi prego Elena. Dunque, io ecco, ho il ruolo del commentatore, del discussant, no? Come si dice nel paese dove questo ruolo è stato poi inventato, cioè di colui che fa semplicemente delle osservazioni alla bellissima e ricca esposizione di Toni Molo. Bellissima e ricca, e tuttavia non ricca quanto lo è il libro, come ovvio, insomma, perché dovendo poi restringersi in un tempo limitato, ovviamente non tutti i temi che ci sono nel libro sono emersi dall'esposizione stessa. Certamente sono emersi i temi principali. La famiglia è oggetto di attenzione da parte della storiografia ormai da tempo, come un elemento storico importante, la cui evoluzione si connette all'evoluzione delle forme di potere da una parte e all'evoluzione dell'economia e della società dall'altro. Certamente la ripresa di questo tema, particolarmente studiato direi proprio per Firenze nel 400, la ripresa di questo tema da parte di Molo ha delle caratteristiche decisamente innovative. Mi sembra che la caratteristica innovativa più forte, che è venuta fuori, emersa bene anche dall'esposizione di oggi, dalla presentazione di oggi, ma rispetto alla quale forse si può anche ricordare qualche altro aspetto del volume, la caratteristica innovativa più forte è proprio quella stretta connessione che Molo pone tra la storia delle famiglie fiorentine, caratterizzata appunto a suo avviso da questa lunga sopravvivenza che va spiegata, da questa continuità che non è automatica, ma ecco, va in qualche modo motivata, con le istituzioni cittadine, con alcune istituzioni cittadine in particolare, e cioè con quel monte delle doti che mi pare oggi non hai neppure nominato per necessità di cose, ma che è uno dei protagonisti di questo volume, dove tutto il sistema delle doti, di questa grossa, cospicua circolazione di beni tra le famiglie, è fortemente sostenuto, benché non si esaurisca in ciò, dall'azione di una istituzione che è una sorta di istituzione assicurativa, per cui i parenti che hanno una figlia che sanno poi di dover dotare, per lo più in prospettiva matrimoniale, poi da un certo punto in poi anche in prospettiva, in una prospettiva diversa e meno lieta, che meno lieta dal mio punto di vista, poi non lo so, che è quella della monacazione, ecco, queste famiglie investono in uno degli organi che in qualche modo appunto si fondano sull'investimento e poi sulla resa dei capitali, quindi proprio un fondo di assicurazione, che si chiama il Monte delle Doti, la cui storia è veramente intrecciata strettamente nel libro di Molo a quella dei grandi processi che invece, giustamente direi, ha oggi privilegiato nella sua esposizione. Però mi sembra importante richiamare questo, cioè ricordare che dietro alla possibilità di dare delle doti cospicue e che tendono, per quanto appunto è possibile vedere proprio attraverso la gestione del monte delle doti, tendono a farsi più forti con il tempo, semmai meno numerose ma più forti, ecco, questa circolazione dei beni è veramente legata all'azione di una e all'esistenza e al modo di agire di un'istituzione cittadina. Quindi la storia della famiglia da una parte e la storia delle istituzioni dall'altra, strettamente intrecciata, il che dà quasi il senso di una strategia che non è sicuramente una strategia che si esaurisce nell'ambito delle diverse famiglie, ma diventa veramente una grande strategia di tipo cittadino, appunto di quella civitas che alla fine della sua esposizione Molo ha richiamato con le parole del Ruscellai, no? Mi pare detto, è la memoria genealogica quella, ecco, con le parole di un Ruscellai come collettività di lignaggi, questa grossa identificazione proprio della città stessa con le famiglie, le grandi famiglie che ne fanno parte. Questo mi sembra uno dei punti veramente importanti di questo volume, perché appunto rimette in gioco e mette in gioco in un modo diverso da quanto, diciamo, dai punti d'arrivo della precedente storiografia, il rapporto della storia della famiglia con la storia dei sistemi politici, se volete, con la storia dei ceti di potere, e rimette in gioco proprio l'intreccio tra pubblico e privato, come ricordava Piero Schiera, e questo intreccio che oggi, ecco, interessa, direi, oggi più di ieri, sia coloro che si occupano evidentemente di famiglia, che partono dalla storia della famiglia, è il caso in questo libro di Molo, che in altri libri ha seguito approcci e linee di interesse diverse anche, sia di coloro che oggi si occupano dello Stato e che cercano dietro alle forme di estrinsecazione del potere, cercano proprio i nessi reali e gli intrecci reali di rapporti, in questo caso proprio a livello familiare. La tesi che Molo ha sostenuto nel suo volume, e che questa è venuta fuori con molta forza anche dall'esposizione di oggi, è quella di una sostanziale continuità della classe dirigente fiorentina, una sostanziale continuità che Molo osserva è in realtà in contrasto con quei modelli generali che a partire da Adam Smith e poi via via attraverso le storie, le ricerche anche fatte da storici recenti, quel modello che ha distinto la continuità delle famiglie che sono in qualche modo legate alla proprietà fondiaria, nei sistemi che sono dominati dalla proprietà fondiaria, e rispetto invece alla rapida estinzione, al rapido succedersi delle fortune familiari e delle famiglie, laddove prevale l'attività commerciale. Ecco, qui io ho l'impressione che veramente si aprono anche una serie di problemi sui quali si potrebbe discutere a lungo. Un altro dei temi che non è stato forse oggi ripreso, ma che è presente fortemente nel libro di Molo, è quello di una certa evoluzione in questa continuità, di una certa evoluzione di alcuni mutamenti, in particolare verso la fine del 400, proprio, diciamo, in primo luogo nell'uso dell'istituzione, no? Nell'uso del monte delle doti e nel senso che quest'uso, che quest'uso assume a livello di storia della società. C'è verso la fine del 400 una concentrazione in sostanza delle doti. Le doti che vengono distribuite dal monte a coloro che hanno evidentemente pagato i premi assicurativi in precedenza. Le doti che vengono distribuite dal monte sono delle meno numerose, toccano un'area meno estesa nell'ambito della società e però sono molto più cospicue. Ecco, Molo parla a questo proposito di aristocratizzazione della società fiorentina. Qui ha parlato oggi di gerarchizzazione, i due termini poi in qualche modo sono ovviamente vicini, di mobilizzazione in fondo dei diversi livelli sociali. Nel libro si parla esplicitamente di aristocratizzazione con riferimento a colui che ha lanciato questo termine, se non lo ha coniato, che è poi Fernand Braudel con l'idea del tradimento della borghesia. Ecco, io non so, e qui è uno dei problemi che secondo me si aprono veramente, un libro vale non solo per i problemi che chiude, ma decisamente anche per i problemi che apre. Io non so bene quanto questa idea, questa categoria dell'aristocratizzazione sia poi veramente utile a un'indagine storica che si estende su un arco di tempo abbastanza lungo, no? Insomma, Braudel ne parlava per il Cinquecento. Se noi troviamo la categoria utile anche per il Quattrocento, ciò incomincia a porre qualche problema, perché non ci si può continuare ad aristocratizzare per secoli. A un certo punto si sarà pure diventati, l'aristocrazione avrà avuto luogo e basta, il discorso è chiuso. Quindi ecco, qui veramente c'è un problema di vedere in che misura nell'ambito della società fiorentina questi processi hanno avuto luogo nel 400 e poi eventualmente hanno avuto luogo nei secoli di cui io qui tenderò un po' a parlare perché mi ci muovo meglio, non per altro, ecco, che sono i secoli successivi. Con appunto questa cautela che secondo me non si può usare una categoria di questo tipo in qualche modo decontestualizzandola e usandola per contesti che sono diversi. Ecco, io ho l'impressione che la ricerca di Molo in realtà sia nei suoi presupposti, sia nei suoi punti di arrivo, suggerisca anche un'altra lettura della storia della società fiorentina e dei suoi sviluppi nel tempo, anche al di là effettivamente dei limiti della ricerca di Molo, che è quattrocentesca e già molto è abbracciare più di un secolo. Era veramente quella fiorentina una società in qualche modo aristocratica o aristocratizzata rispetto ad altre società europee? In fondo, nelle premesse della ricerca c'è proprio il nesso col commercio. Il problema di Molo è la continuità di una rete familiare che è sostenuta dal commercio e non dalla proprietà fondiaria. Io non so quanto veramente il commercio e la proprietà fondiaria fossero cose separate e non so quanto le grandi famiglie mercantili non investissero e non magari investissero di più nel tempo in proprietà fondiarie, cioè qui c'è il vecchio problema che è stato affrontato da una serie di storici anche dell'economia in Italia. Pensiamo per esempio a certe ricerche sul milanese, la prima cosa che mi viene in mente è di De Maddalena, ma molte altre cose, per cui non è un'opzione antitetica impiegare i capitali nel commercio e impiegarli nella proprietà fondiaria, ma è una scelta che passa attraverso le differenziazioni strategiche del patrimonio. Ecco, quindi non so bene questo, cioè non so in che misura poi questa fosse una società nel 400 ancora fondata sul primato del commercio, in che misura invece venisse fuori il resto, no? E però ecco, si può parlare di tradimento della borghesia solo se c'è quest'altro aspetto, cioè se c'è il primato della borghesia, almeno per l'inventore, il tradimento della borghesia per l'inventore dell'espressione era proprio il tradimento delle attività commerciali a favore, che sarebbero state tipiche della borghesia, a favore invece dell'investimento fondiario. Ecco, la mia impressione, e dico è un'impressione molto superficiale, per esempio fondata, che so io, sulle relazioni degli ambasciatori veneti nel Cinquecento, cioè sulla lettura che da parte di persone abituate ad osservare, che provengono da un altro ambito non lontanissimo poi da quello di Firenze, no? Come quello di una repubblica che dura come repubblica più di Firenze, ben più di Firenze, ma che fino a un certo punto ha proprio in comune l'esperienza repubblicana. Ecco, se io penso alle relazioni degli ambasciatori veneti, gli ambasciatori veneti sottolineano, penso per esempio a quella, mi pare che sia del Contarini del 1527, sottolineano la scarsa aristocraticità della società fiorentina, cioè il fatto che i membri delle famiglie dirigenti sono a bottega e non solo esercitano l'attività commerciale, ma la esercitano in un modo che deroga ad abitudini nobiliari che altrove invece sono già andate affermandosi. E ciò continua, perché se penso ancora a delle relazioni sulla corte toscana scritte in Francia all'epoca di Cosimo III, fine del 600, il discorso non è estremamente dissimile. Si dice che razza di corte questa è una corte dove si fa vita di corte solo alla sera, perché di giorno i membri della corte stanno a fare i loro affari. E quindi, ecco, è una corte ben diversa da altre corti europee. Questo a me sembra anche in prospettiva una cosa molto interessante ed una cosa che in realtà può benissimo collegarsi alla visione di questa rete familiare che in realtà, ecco, riesce a procedere in qualche modo insieme, senza mai rompere. Questa a me sembra una delle cose molto interessanti del libro di Molo, no? L'attenuazione dell'idea della lotta di fazione come caratteristica della vita fiorentina, un'idea che ha radici lontanissime, perché c'è già negli storici del 3-400, c'è poi in Machiavelli, c'è in Guicciardini, insomma, quindi ecco, è un'idea che ha lontanissime origini. Molo attenua questa idea del contrasto, attenua l'idea del conflitto e vede invece la solidarietà delle famiglie, che possono anche essere espulse, i magnati possono essere espulsi, però poi se si considerano le cose in altro modo, cioè se si definisce in altro modo la classe dirigente, ebbene riemerge una sorta di compattezza. Una sorta di compattezza che è forse veramente una delle cose che sostiene a lungo quella che forse è, e qui Molo diceva giustamente prima di dire che certi aspetti sono specifici di Firenze, andiamoci molto piano, bisognerebbe sapere con altrettanta precisione cosa avviene altrove, quindi anch'io vado molto piano, però ecco, è forse uno degli aspetti che configura la società fiorentina come una società modestamente aperta, certamente non che qui non ci sia un patriziato e un'oligarchia fiorentina. Forse non è un patriziato così chiuso, non è un patriziato così piccolo neppure, e nell'insieme è un patriziato che riesce a sopravvivere così lungamente come patriziato, proprio perché riesce a sopravvivere in una sorta di solidarietà. E le doti sono indubbiamente, le doti e i matrimoni sono indubbiamente un momento centrale di questo sviluppo di una solidarietà. Io ricordo una cosa che veramente fiorentina non è, ma in qualche modo ci riporta ad un centro vicino a Firenze, se si vuole, proprio alla presenza di modelli analoghi anche nei centri che subiscono poi l'egemonia fiorentina in quanto seguono in qualche modo il modello di Firenze. A Prato nel Cinquecento i consigli comunali più affollati, vedendo proprio il numero dei presenti, sono quelli in cui si distribuiscono le doti, che lì non dipendono da un monte delle doti, ma invece dipendono dalle grandi istituzioni assistenziali, in primo luogo proprio dai Ceppi di Prato, che è un'enorme, ricchissima istituzione assistenziale, che distribuisce doti sia alle grandi famiglie pratesi, non ha nulla da spartire con quelle fiorentine, ma ci sono sempre delle famiglie che in qualche modo costituiscono l'oligarchia pratese, sia a famiglie più modeste, in città Prato così come nel contado. E una delle cose interessanti è che appunto queste sedute sono le sedute più importanti del Consiglio Comunale, quelle più affollate, proprio perché sono le sedute dove il pubblico e il privato stanno insieme e ci sono degli atteggiamenti molto diversi a seconda che le doti siano date alle fanciulle del contado in modo assistenziale, perché allora sono votate all'unanimità, sia che si diano invece all'interno della città, perché allora ci sono una serie di differenziazioni. C'è chi ottiene molti più voti, c'è chi ne ottiene meno, cioè diventa veramente un terreno concreto in cui in qualche modo si ricostituisce l'unità cittadina, tutti sono interessati, e anche in questo caso delle differenziazioni, che il sistema del Monte delle Doti in realtà eliminava, perché era un altro sistema, perché bisognava pagare all'origine, non c'era poi da contendersi i risultati della cosa. Ecco, io ho l'impressione, non so se il discorso resta ovviamente incompiuto, ma ho l'impressione che il Molo abbia realmente individuato alcuni punti forti intorno a cui ricostruire questo intreccio tra relazioni familiari e relazioni pubbliche, e al tempo stesso abbia aperto alcune vie su cui ulteriormente si può ricercare e indagare, proprio sulla forma della quella che lui chiama classe dirigente fiorentina. Anche qui naturalmente si potrebbe discutere a lungo, perché probabilmente ecco, tra 400 e 500 o 600 la classe dirigente potrà essere lo stessa, ma il significato cambia. Ruling, no? Ruling class. Il significato cambia, cioè chiaramente quel patriziato che ricostruisce Litchfield per sostenere la continuità, manca di alcuni personaggi importantissimi, cioè per esempio il presidente della Consulta a Firenze nel 500-600, che non è persona di poco conto, perché è il presidente del Consiglio che esamina le suppliche inviate al Granduca e concede le grazie, quindi ha un potere di grazia. Il presidente della Consulta non è un membro del patriziato fiorentino, questo Litchfield lo ignora completamente, è un giurista di provenienza non fiorentina, cioè lì siamo di fronte probabilmente ad una classe dirigente che andrebbe definita in altro modo e che non si può esaurire nel patriziato, anche se certamente il patriziato a Firenze resta una realtà corposa e importantissima fino a quando poi si pongono i problemi che vengono risolti, affrontati nel Settecento dopo il cambio di dinastia. Ho fatto alcune osservazioni e penso di aver parlato troppo lungo e detto troppo poco. Ci sarebbero appunto tante osservazioni da fare e così io reagisco sostanzialmente solo all'ascolto, perché ho appena avuto modo di dare un'occhiata molto rapida ad alcune parti del libro. Ecco, io sono portato a così spostare un po' indietro il baricentro così delle osservazioni per questioni appunto di competenza e di interesse. Così per il punto di riferimento cronologico, insomma, ecco, non lo so, ragionerei soprattutto su queste grosse questioni che sollevava adesso anche la professoressa Fasano, e credo che così sulla tendenziale staticità delle società cittadine italiane in età moderna ci sia un consenso abbastanza vasto, insomma, e così al di là dei casi di Firenze e di Venezia, anche guardando la generalità delle città italiane, il 500, il 600, il 700 sono, lo sappiamo tutti, un periodo di involuzione economica, di sostanziale contrazione delle attività commerciali, di agrarizzazione dell'economia e via di questo passo. Ecco, quindi, appunto, tenendo conto di questo fatto, credo che un aspetto interessante sarebbe proprio quello di valutare comparativamente città per città, località per località all'interno appunto del contesto italiano, il momento nel quale questo dinamismo viene meno. Cioè, se si osserva la storia delle società post-comunali italiane a partire dagli inizi del 200, ci sono dei decalage cronologici abbastanza precisi, no? A partire dai quali la dinamica sociale appunto si rallenta in considerazione di fattori economici naturalmente, ma anche di fattori politici. Ecco, se si pensa per esempio alle società, prendiamo per esempio le città dell'area veneta, Padova, Verona, Vicenza, il momento nel quale, diciamo così, si avvia questo consolidamento del patriziato, questa definizione del patriziato e viene meno quella dinamica sociale accesa che aveva caratterizzato l'età comunale, è profondamente diverso. Il regime di popolo a Verona nella seconda metà del 200, il regime signorile carrarese a Padova nella seconda metà del 300 costituiscono appunto un momento forte di svolta. Ecco, allora appunto una delle questioni che mi si ponevano era proprio questa. E è chiaro, il fatto che la dinamica politica in Firenze quattrocentesca resti aperta influisce molto su questo rallentamento, diciamo così, della aristocratizzazione e della chiusura del ceto dirigente, così come influisce molto la tenuta dell'economia fiorentina, il fatto che ancora alla metà del Cinquecento i patrizi fiorentini stessero al banco. Spostando indietro appunto il baricentro cronologico, io credo che sia difficile appunto non tenere conto del punto di partenza appunto costituito dall'età post-comunale. Credo che proprio città per città bisognerebbe valutare a partire dagli inizi del 200 e le fasi appunto nelle quali avviene avvengono questi rallentamenti della dinamica politica e sociale e si modificano i ritmi del ricambio interni al ceto dirigente, tenendo conto in particolare delle variabili di carattere politico. Se pensiamo alla Bologna della seconda metà del 200 con le decine di migliaia dei fuoriusciti più o meno stabilmente tali, pensiamo alla Pisa dei primi anni del 400, ecco, pensiamo appunto alle stesse decapitazioni dei ceti dirigenti guelfi che città come Mantova, come Verona, come Brescia subiscono appunto in questi anni. Ecco, e questo discorso appunto della interferenza proprio della dinamica in senso stretto politica nel 200 e nel 300 credo appunto che vada tenuto abbastanza presente, differenziando naturalmente caso da caso e città da città. Ecco, un'altra riflessione così più occasione più che mi veniva da fare era legata così a quella sottolineatura molto forte che hai fatto della dell'epidemia, della pestilenza nel corso del 400 come un dato che influisce appunto su questi. E appunto mi veniva da pensare che in realtà leggendo proprio, cioè è chiaro che è un fatto che ha un suo rilievo, no? Ecco, che però contrasta con altri spunti che ricaviamo così dalla letteratura e anche dalla stessa bibliografia, Anderson e tutti gli studi recenti sulle pestilenze anche a Firenze nel 400, no? Cioè l'incidenza di classe è molto marcata, che si afferma di solito sull'epidemia, il fatto che i ricchi hanno la possibilità di fuggire fuori città, ecco, per certi aspetti, come dire, dal punto di vista della mentalità, anche quella stessa tranquilla noncuranza con la quale nei ricordi, nei libri di ricordanze si accetta la morte del figlio, della moglie, no? Che viene registrata come un fatto così scontato, no? Ecco, sembrerebbe mettere in questione un pochino questa così ruolo così decisivo, insomma, così incisivo che veniva fuori un pochino dalle tue osservazioni. Ecco, e un'ultima richiesta così di no, un'altra osservazione ancora, così penso che si possa fare. Mi è capitato di studiare qualche anno fa diverse centinaia di testamenti di patrizi veronesi del 400 in vista di una ricerca appunto complessiva sul patriziato veronese in quest'epoca che non ho mai fatto. Ecco, l'idea che mi ero fatto io era che questa sostanziale endogamia che si rileva attraverso lo strumento di lettura del Monte delle Doti valesse, funzionasse come un elemento così costante un pochino di quella che era la cultura dei ceti dirigenti italiani del 300 e del 400, no? Cioè quest'idea dell'universo mentale meramente cittadino, meramente limitato, no? alla cerchia della città, a prescindere da quella che sono così le condizioni politico istituzionali della quale la città si trova, no? Credo che così vada tenuto presente anche a Venezia, per quanto so, chi si è occupato di queste cose ha fatto le stesse osservazioni, no? Ecco, quindi a prescindere dai meccanismi, diciamo così, specifici di carattere assicurativo e garantistico, appunto, come il Monte delle Doti, credo che così un orientamento di questo tipo possa essere considerato proprio strutturale, insomma, delle città italiane a partire dal tardo Medioevo. Ecco, fatta eccezione eventualmente per uno strato particolarmente elevato, per la nobiltà distinta dal patriziato, per una circolazione interfamiliare che così può riguardare un certo piccolo gruppo di famiglie. Verrebbe in mente quella distinzione che Berengo faceva a proposito del patriziato veronese fra patriziato e nobiltà, appunto distinguendo i Malaspina, i Nogarole, i Bevilacqua, i Castelbarco, i pochi titolati, dalla massa appunto di un patriziato che ha invece appunto un senso profondo della civitas, un'idea precisa appunto della necessità anche di tutelare le proprie risorse economiche. Ecco, quindi così a lume di mero naso, sulla base di qualche esperienza, credo appunto che alcuni tratti di questo modello siano sicuramente generalizzabili, insomma, ecco, e la prerogativa speciale della tua ricerca sta, cioè il è veramente appunto eccezionale la fonte, no? Che ha permesso con particolare chiarezza di evidenziare certi nodi che forse appunto anche da altre ricerche possono venire fuori, insomma, ecco. Mi scuso così della sommarietà e della genericità delle osservazioni. Grazie a voi. Allora, io invece vorrei lasciare al professor Molo, che ringrazio molto per aver accettato questo invito, la possibilità di rispondere, e l'inviterò, visto che spero di avere altre occasioni di dialogare con lui, l'inviterò il mio intervento a un accenno a un aspetto di questo libro che mi ha colpito molto, ed è il linguaggio. Siccome non ritengo che il linguaggio sia una fase finale, ma ritengo che sia un momento conoscitivo, un momento gnoseologico, la bellezza, la purezza, l'essenzialità, la nitidezza di questo linguaggio, insomma, no? Secondo me meriterebbe di farci un seminario e provare a tradurlo. È una cosa davvero. Mi ha fatto venire in mente una citazione di William Blake che dice, la sono scritta qui, senza precisione di esecuzione il sublime non esiste. Grandezza, e lo dice proprio grandeur, di idee è connesso con precisione delle idee. Questa è l'unica cosa che dico. Io ci sono diverse altre note che ho fatto, ma preferisco che tu chiuda tu stesso, forse rispondi se hai qualcosa da dire. Prima di tutto voglio ringraziare gli amici che hanno risposto benevolmente alla nascita di questo mio figlio, che è il libro. Come diceva Piero poc'anzi, fare un libro a volte comporta più fatica che non fare un figlio. Però io aggiungerei a questo che, come con i figli, a volte i libri assumono o prendono una identità autonoma e vanno per strada propria. A volte è difficile per il genitore essere responsabile per tutto quanto uno trova o nel carattere del figlio o nei contenuti di un libro. Allora, i problemi che sono stati sollevati mi sembra che siano problemi reali. E nella premessa del mio libro ho detto una cosa che quasi l'ultimissima cosa che scrissi prima di consegnare il manoscritto era questa, cioè che non c'è nessuno che sia più consapevole dei problemi, delle debolezze di un libro che il proprio autore. A un certo momento l'autore deve chiudere per motivi anche, diciamo, personali, che non hanno niente a che fare con carriera, con contratti, con scadenze, ma proprio per motivi personali. Io ho sentito questo bisogno, questo libro che trascinavo dietro di me per anni e anni e anni, e ho chiuso. Ma chiudendo formalmente non mi sono illuso, credo di non essermi illuso, credendo che i problemi che avevo toccato in questo libro fossero in qualche modo definitivamente o autorevolmente disposti nelle sue pagine. Allora, il problema, secondo me, su questo sarei abbastanza certo, credo, una delle idee che ho, così, ci ho giocato con questa idea, ci ho scritto varie cose, riscritto e buttato via vari tentativi di esprimermi, il problema di pubblico-privato e questo intreccio che ho creduto di intravedere nella storia di Firenze è un problema che emerge abbastanza chiaramente dalle pagine del mio libro e sul quale mi sentirei abbastanza a mio agio. Potrei discutere, addirittura cercherei, se fosse necessario, difendere questa cosa. Altri problemi invece sono più, diciamo, più elastici, più aperti, più tenui, più problematici. Il problema dell'aristocratizzazione, della quale ha parlato Elena Fasano, e anche Varannini, è un problema reale, è un problema reale, perché avrei voluto tanto di pensare io a quello che ha detto Elena, che se uno parla sempre di aristocratizzazione attraverso due o tre secoli, allora che cavolo di aristocratizzazione è questa? Insomma, o si finisce o non si è mai cominciata. Io direi però, chiamiamolo aristocratizzazione come ho fatto io, chiamiamolo in altro modo, c'è qualcosa che cambia a Firenze alla fine del 400. Una cosa che sottrae, secondo me, un elemento di dinamismo, un elemento di così vitalità, se si vuole, dalla Firenze che conosco io attraverso le mie ricerche e le ricerche altrui del 300. E lì c'è tutto da discutere. E un'altra parte del libro che secondo me varrebbe la pena discutere, ma discutere, io ho suggerito a qualcheduno di discutere sulla base di ricerche, di dati reali, sarebbe questo problema del che cosa significhi questo tasso di endogamia. Varannini diceva, altri hanno appurato lo stesso fenomeno, individuato lo stesso fenomeno a Venezia, certamente Cognacchi ne ha individuato, e sono pienamente d'accordo sull'idea, l'ipotesi, che questo carattere, questa caratteristica endogamica sia una caratteristica strutturale di una certa società. Se quel tasso endogamico, quella pratica, modello endogamico che io ho creduto di intravedere nella storia di Firenze sia talmente alto come io ho creduto, ho pensato di credere, o che se fosse forse più basso, meno eclatante, se messo a confronto con altre realtà italiane, no, non saprei. E l'unica cosa che mi consola in questo momento è che non credo che nessun altro sappia, perché non credo che esistano delle ricerche abbastanza specifiche. Continuando su questo filone, se posso ancora per un minuto, particolarmente per gli studenti qui, ho pensato quando la professoressa Seidel-Menchi mi invitò molto gentilmente a parlare e mi disse che avrei parlato prevalentemente a studenti, ho pensato per un momento che forse il taglio da dare alla mia lezione sarebbe stato quello di descrivere un po' come si è sviluppata questa ricerca. E poi ho scartato questa possibilità per vari motivi, ma secondo me sarebbe stato forse interessante partire dal punto dove mi sono trovato io esattamente nell'inverno primavera del 1972, avendo scoperto per la prima volta i libri del Monte delle Doti. Cioè, il punto di partenza fu una collezione di dati, di documenti che non erano conosciuti quasi a nessuno, certamente non a me, e che mi spinsero in una certa direzione. Però, ecco, il lavoro dello storico, secondo me, e qui mi rivolgo prevalentemente, mi rivolgo esclusivamente agli studenti, il lavoro dello storico implica, diciamo, l'intreccio tra la fonte e la domanda. E lì io ho cercato, a volte forse anche troppo disperatamente, di uscire dalla fonte specifica per confrontare la fonte con altre fonti. E questo implica dei problemi che incidono direttamente sulla domanda fatta da Fasano e da Varannini, cioè aristocratizzazione e confronto tra quella società fiorentina con altre società non fiorentine, italiane e non. E vorrei tanto che ci fossero altre ricerche, e io per ora almeno ho chiuso con questo capitolo, ma mi interesserebbe molto che altri, particolarmente giovani, confrontassero le mie ipotesi e le mie analisi con le proprie e arricchissero un po', ma in modo concreto, reale, il quadro all'interno del quale si potrebbero fare questi non confronti. Non con 25.000 ragazzi. Non con 25.000 ragazzi, ma anche con, diciamo, con 2.000 o 1.500 sarebbe utile. Non credo che il numero sia essenziale, quello che è essenziale è la sistematicità. Cioè, una delle domande che mi sono posto sin dall'inizio, gli storici sono molto bravi a parlare di quello che il matematico chiama il numeratore di una frazione, gli storici sono molto meno bravi a parlare del denominatore di una frazione. Si parla di 25 esempi di questo e di 138 esempi di quell'altro, ma raramente si sa 18 esempi, 20 esempi o 100 esempi su quanti altri e su quanti casi e lì, cioè, non mi sembra che sia il numero che sia essenziale, piuttosto la consapevolezza del tipo di campione e che cosa rappresenti il campione con il quale uno sta lavorando. Ci sono altri temi, e io magari mi soffermo soltanto su uno o due. Problema della natura dell'economia fiorentina nel 400, che è stata sollevata da Elena Fasano. Secondo me è un problema del tutto aperto. Del tutto aperto. Ci sono state moltissime polemiche, tantissime parole, ma di dati veramente concreti e affidabili non credo che ce ne siano tantissimi in giro. E lì c'è da fare delle ricerche molto approfondite. Le fonti esistono, ma sono problematiche. Il catasto, per esempio, al quale si sono rivolti gli storici sistematicamente e ripetutamente, catasto è ricchissimo, ma solleva dei problemi che non finiscono mai, che molto pochissimi storici hanno voluto affrontare esplicitamente. Comunque, quello che dicevi tu sulle osservazioni degli ambasciatori veneziani e anche francesi è vero. Io direi soltanto un confronto tra Venezia o la Francia, non so, Lyon o Parigi e Firenze, senz'altro sarebbe molto molto interessante. Altrettanto interessante sarebbe il confronto tra la situazione fiorentina, diciamo, nel 1527, quando l'ambasciatore veneto scrive la sua relazione, e la situazione fiorentina di 100 anni prima. Cioè, c'è bisogno di questo tipo, di questa dimensione, di questo spessore diacronico. E ci sono problemi reali qui che vanno affrontati. E secondo me il punto fondamentale fu espresso da Philip Jones in un suo articolo basilare del 1956, che è stato tradotto e pubblicato in quel libro di Einaudi. Ma da allora non credo che abbiamo fatto molta strada avanti. Per cui, ecco, anche qui auspicherei ulteriori ricerche. Ultimissimo punto. Mi accorgo di... un ultimo punto, avrei forse un altro, ma questo si può parlare privatamente. Il ruolo della mortalità, Varannini ha sollevato questo. Io sarei propenso, almeno ora, come ora, sono propenso di vedere come la metà del 300, la cosiddetta crisi del 300, come uno dei grandi momenti tornanti della storia europea. Cioè che la situazione non solo epidemiologica, ma economica e politica, sociale, sia stata cambiata in modo assolutamente radicale da quello che avvenne non solo quello che avvenne nel 48, 1348, ma anche dalla successione di incidenze, visitazioni dell'epidemia. C'è una struttura, se vogliamo, familiare, europea, che emerge come conseguenza dell'epidemia endemica nell'Europa tardo-medievale. Questa è un'ipotesi, non è che io abbia dei dati più numerosi di quanto non abbiano gli altri, ma un'impressione che mi sto facendo pian piano, che questo è veramente uno dei tornanti fondamentali e che incide su tutto, sull'aspettativa della vita, sulla struttura della famiglia, sulla distribuzione della proprietà, sulla opportunità di investimento, sull'incidenza della guerra, sul modo nel quale le terre erano coltivate, cioè qualsiasi manifestazione della vita sociale, economica, politica si decide di osservare, mi sembra che quello che avvenne come conseguenza delle ripetute visitazioni epidemiche a metà del 300 sia stato cambiato. Non voglio parlare dell'Europa, io conosco un po' qualche cosa su piccoli angoli dell'Europa tardo-medievale, ma lì dove dovunque guardi, mi sembra di intravedere una tale influenza, per cui non mi spiacerebbe poter scrivere qualcosa anch'io su questo tema. Proporrei questa tesi, se dovessi fare un piccolo libricino, proporrei questa tesi. Il grande tornante, se la vita europea da circa 1000 alla metà del 1200 ebbe delle caratteristiche di un certo tipo che molti studiosi hanno studiato, e poi dalla metà del 200 si vede un certo rallentamento, se si vuole, come lo si vuole chiamare, e alla metà del 300 c'è una grande svolta. E per cui vorrei eventualmente anche discutere insieme, possiamo discutere. Comunque volevo finire con un'ultimissima osservazione. Io ringrazio, stavo pensando che la mia università dove insegno negli Stati Uniti sarebbe stato assolutamente impensabile, anzi quasi suicida direi, cercare di organizzare una conferenza un venerdì pomeriggio, perché ma qui ci sono colti, perché il weekend americano ormai comincia non venerdì sera ma giovedì sera e si prolunga fino a lunedì pomeriggio, per cui io ringrazio certo tutti gli amici e specialisti che così mi hanno fatto grande onore per venire qua, ma ringrazio particolarmente gli studenti che hanno preso il tempo per venire ad ascoltare queste cose. Grazie. Thank you.